in primo piano. Grazie Alessandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi abbiamo dei giornali che vi offrono dei titoli di apertura molto differenziati gli uni dagli altri. Perché? Perché vi sono molti argomenti, dalla violenza a Guidonia, gli sviluppi con gli arresti, con l'arresto del Branco, alla riforma della giustizia, ai provvedimenti in favore dell'auto, agli sviluppi del caso Battisti, agli echi, alle cronache della giornata della memoria. Questi sono alcuni dei temi che ritroviamo a seconda dei giornali con i titoli di maggiore evidenza. Cominciamo dalla vicenda di cronaca, dalla vicenda degli sviluppi nelle indagini per lo stupro di Guidonia. Ce l'hanno in prima pagina tutti i giornali, magari con diversa evidenza. Ovvio che l'evidenza forse maggiore stia sui giornali di Roma, così il Messaggero ha il titolo di maggior rilievo sulla sua prima pagina: stupro, preso il Branco, la violenza di Guidonia, banditi pronti alla fuga, la ragazza è finito un incubo, arrestati 6 romeni incastrati dal DNA, uno confessa. E poi al momento del trasferimento degli fermati dalla caserma dei carabinieri al luogo di detenzione, c'è stato l'assedio della folla alla caserma e i carabinieri hanno dovuto intervenire per sottrarre al linciaggio i presunti responsabili. Il sindaco di Roma Alemanno è intervenuto dire no alle vendette. La vicenda è raccontata con molti particolari sulle indagini dal Messaggero e da altri giornali, e quasi sempre accompagnata da commenti sulla efficacia, questa volta, delle indagini, su quella che si spera sia una giustizia altrettanto efficace. Naturalmente non mancano anche i commenti un po' controtendenza. Per esempio il giornale Libero titola a tutta pagina "stupro veniale" e con un occhiello fortemente ironico "leggi del piffero", i 4 violentatori romani arrestati rischiano il linciaggio, salvati dai carabinieri, adesso il giudice li metterà fuori con una pacca sulle spalle, non fatelo più, birichini. È un riferimento a quanto accaduto proprio a Roma nei giorni scorsi, dove uno stupratore confesso è stato rimesso in libertà e mandato agli arresti domiciliari dal giudice, neppure 24 ore dopo essersi autodenunciato, essersi presentato alle autorità. Anche il giornale ha un titolo tra l'ironia e la denuncia. Si riferisce al rapporto sullo stato della giustizia che ha fatto ieri il ministro della giustizia Alfano: troppi criminali romeni, ma così possiamo fermarli, hanno il record di reati in Italia. E la proposta provocatoria del giornale è di sospendere Schengen, cioè sospendere la validità in Italia di quell'accordo che consente la libertà di circolazione delle persone fra i paesi dell'Unione Europea che aderiscono appunto al patto di Schengen, e l'Italia è uno di questi. Accanto al tema della violenza e agli sviluppi di cronaca sulle violenze sessuali degli ultimi giorni, vi ho detto, ci sono altri titoli, molti altri titoli sulle prime pagine. La Stampa di Torino, che non è un caso ancora una volta che sia La Stampa a dare molto rilievo alla crisi dell'auto e ai provvedimenti per affrontarla, annuncia in prima pagina auto il giorno del vertice. Oggi è attesa una riunione da cui dovrebbero uscire decisioni per fare fronte alla crisi del settore dell'auto, che è uno degli aspetti, forse per l'industria italiana il più inquietante, della crisi dell'economia in atto. Scrive il giornale di Torino: in Germania e Francia, con gli incentivi, vendute 300.000 vetture in più. Ieri la Fiat dal governo per gli aiuti al settore. Il sommario del giornale ci dice: è durato 45 minuti l'incontro tra i vertici Fiat e il governo a Palazzo Chigi. Al centro della discussione gli aiuti al settore auto in vista del tavolo di oggi al Ministero per lo Sviluppo Economico. Le decisioni sono dunque attese in giornata, ma c'è da parte della stampa quasi il suggerimento che con incentivi alla vendita delle vetture si possa attenuare la crisi. Temi dell'economia ovviamente in grande risalto sul Sole 24 Ore. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore: ultimo passo della manovra, approvato con il voto di fiducia al Senato il decreto da 5 miliardi con interventi urgenti per l'economia. Pensioni, partita la procedura di adeguamento dei coefficienti. Questa la sintesi del quotidiano economico. La manovra anticrisi per il 2009 è diventata legge. Il Senato ha convertito definitivamente ieri sera il decreto 185/08. Il voto di fiducia al governo, l'undicesimo voto di fiducia, mi pare di ricordare, di questo esecutivo, ha ottenuto 158 sì, 126 no e 2 astenuti. Il provvedimento, che sarebbe scaduto oggi, contiene interventi urgenti a sostegno dell'economia per un valore di poco inferiore ai 5 miliardi di euro. Le misure spaziano dal bonus famiglia all'IVA per cassa, passando per il ripristino dell'ecoagevolazione del 55% sulla ristrutturazione e gli sconti per i pannolini. Dunque un ultimo pacchetto di provvedimenti che dovrebbero consentire all'economia di superare o di affrontare meglio questa stagione di crisi. Altro tema, questo lo leggiamo sulla Repubblica, ma altro tema che è poi distribuito sulle prime pagine in posizione diversa di tutti i giornali è l'apertura del nuovo presidente americano, del presidente nero Barack Obama, all'Islam. Obama parla all'Islam, non siamo il nemico. Il presidente degli Stati Uniti ha concesso un'intervista alla TV Al Arabiya, una delle televisioni all news che parlano al mondo arabo, e ha detto: non siamo il vostro nemico, parlando del Medio Oriente, del conflitto israelo-palestinese, dell'Iran, di Al-Qaeda e della lotta contro il terrorismo. E poi si è anche raccontato in prima persona per aprire un dialogo o per accreditarsi come portatore di dialogo verso il mondo islamico. Ho vissuto, ha detto, in paesi musulmani e ho parenti musulmani. La Repubblica accompagna la sintesi delle parole di Obama, che ha già dato segnali di diversità nella sua politica estera rispetto a quella dell'amministrazione Bush, per esempio dichiarandosi pronto al dialogo diretto con l'Iran. La Repubblica accompagna il titolo e la sintesi dell'intervista di Obama con un commento di Lucio Caracciolo: se Barack abbatte il muro, quello del dialogo con l'Iran, quello dell'apertura di credito ai paesi musulmani, anche quello del rispetto delle norme dei diritti dell'uomo nella lotta contro il terrorismo con la chiusura di Guantanamo. Segnalo, è un argomento che ha soltanto la Repubblica. Segnalo che di spalle in prima pagina sulla Repubblica c'è una intervista alla figlia di Totò Riina, Maria Concetta Riina, La mia vita con un padre che si chiama Totò Riina, un'intervista di Attilio Bolzoni, molto lunga, molto ampia e tutta da leggere. Il Corriere della Sera lo citiamo perché la sua apertura, ma anche qui è una scelta che poi molti giornali fanno in posizione diversa, la sua apertura è invece dedicata alla giornata della memoria che si è celebrata ieri in tutta Italia con grande rilievo, in una giornata in cui si sono intrecciate la celebrazione della giornata della memoria, cioè del ricordo e della denuncia dell'olocausto degli ebrei nella seconda guerra mondiale, ma questo tema si è intrecciato con le recenti polemiche innescate da atteggiamenti diversi e da giudizi diversi sul conflitto di Gaza e sull'atteggiamento israeliano in quel conflitto, e proprio negli ultimi giorni dalla decisione del Papa di riammettere nella comunione cattolica i lefebvriani, e fra i lefebvriani anche il vescovo Williamson, che è un vescovo negazionista che dice che l'olocausto non c'è mai stato. Il Corriere della Sera cerca di sintetizzare in un titolo e in un pacchetto di servizi tutto questo tema. Il titolo principale dice: i lefebvriani si scusano, perché ieri ci sono state le scuse della comunità lefebvriana al Papa per i giudizi di Monsignor Williamson. Giornata della memoria, allarme di Napolitano, no a un nuovo antisemitismo. Israele dice non basta, fini un'infamia il negazionismo. Ieri il superiore dei lefebvriani, Bernard Fellay, ha chiesto perdono al Papa e a tutti gli uomini di buona volontà e ha imposto il silenzio su questioni politiche o storiche al vescovo negazionista Richard Williamson, definendo inopportune le dichiarazioni del prelato a proposito dell'olocausto. Ma l'ambasciatore israeliano a Roma non è soddisfatto, ci aspettiamo che dalla Santa Sede ai più alti livelli ci sia un chiarimento. Dunque la polemica non si spegne, ovviamente non si è spenta qui, ma certo ieri è stata una giornata in cui la riflessione su questo insieme di problemi è stata molto profonda. Abbiamo visto nella prima parte quelli che sono i titoli che più o meno caratterizzano tutti i giornali, sia pure con distribuzione diversa, l'eco della giornata della memoria, gli sviluppi delle indagini sullo stupro di Guidonia, le polemiche o le attese per le misure a favore dell'auto, e adesso l'intervento di Obama, del Presidente degli Stati Uniti, che ha aperto all'Islam. Adesso vediamo altri temi che troviamo sulle prime pagine dei giornali, magari non su tutte, che hanno certo una importanza che avranno seguito anche nella giornata odierna. Il mattino, fra i titoli di prima pagina, il quotidiano di Napoli mette gli sviluppi della riforma della giustizia e in particolare gli sviluppi sul problema sulla riforma delle intercettazioni. Intercettazioni più brevi, intesa nella maggioranza. L'annuncio di Alfano è il ministro della giustizia, no al carcere per i giornalisti, ma nel contempo vengono inasprite le misure nei confronti, si prevede di inasprire le misure nei confronti degli editori. Cos'è successo ieri su questo fronte? C'è stato un accordo nella maggioranza, si potranno intercettare tutti i reati con pena al di sopra dei 5 anni, come già prevede la legge attuale, ma viene fissato un vincolo per la durata delle intercettazioni, 45 giorni, prorogabili di altri 15, eccetto per i casi di mafia e terrorismo, dove questo limite non vale. Il ministro della giustizia ha detto alla Camera, ha indicato alla Camera anche alcune altre linee della riforma della giustizia, denunciando in particolare che vi sono in questo momento quasi 9 milioni di processi arretrati, quindi un pesante ritardo nello smaltimento della giustizia. Altro tema, altra polemica molto vivace in questi giorni è ancora una volta il giornale che più la tiene in evidenza è Il Tempo di Roma, la vicenda Battisti. Dopo l'ultimo no del Brasile all'estradizione dell'assassino, ricordiamo Battisti è il terrorista condannato per 4 omicidi in Italia, di cui il Brasile nega l'estradizione. Dunque, dopo l'ultimo no del Brasile, il ministro Frattini richiama l'ambasciatore, una misura quasi eccezionale per la diplomazia italiana, mi pare che abbia soltanto 4 precedenti nella storia recente della nostra Repubblica. Battisti, linea dura dell'Italia, è il titolo commento del Tempo. E ormai crisi diplomatica tra Italia e Brasile, esasperato dal muro di gomma opposto da Brasilia all'estradizione dell'ex terrorista Cesare Battisti, il ministro degli esteri Frattini, in accordo con il premier Berlusconi, ha richiamato in patria per consultazioni l'ambasciatore Michele Valenzise. C'è stata anche la sensazione che la vicenda potesse stingere sulla prossima amichevole calcistica in programma a Londra il 10 febbraio tra Brasile e Italia, ma cito a memoria una dichiarazione del ministro degli esteri Frattini di ieri sera che ha detto: lasciamo il calcio fuori da questa vicenda. Altra storia che ha titoli su vari giornali in prima pagina, ma quello più in evidenza, non a caso, sull'Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, è Kirill, il nuovo patriarca della Chiesa ortodossa russa, nuovo patriarca che ha già ricevuto gli auguri dalla Santa Sede. Per il patriarcato di Mosca è iniziato il dopo Alessio II. Ieri sera il concilio locale, riunito nella cattedrale di Cristo Salvatore, ha eletto al primo scrutinio il metropolita di Smolensk e Kaliningrad alla carica di patriarca della Chiesa ortodossa russa. Kirill, che ha 62 anni, è un sostenitore del dialogo ed era una sorta di ministro degli esteri della Chiesa ortodossa russa. Dalla Santa Sede gli auguri del portavoce, padre Federico Lombardi, il Papa lo conosce e lo stima. È possibile quindi che vi sia in futuro un incontro tra Kirill e Benedetto XVI. Ancora, e vado rapidamente, i giornali di sinistra, il Manifesto e Liberazione, dedicano ancora spazio in prima pagina alla vicenda di Lampedusa, dove ieri c'è stato uno sciopero generale, e mettono in rilievo entrambi i giornali, leggo il titolo di Liberazione, Lampedusa, scuole a pezzi, ma il governo pensa al lager, una certa contraddizione tra l'attenzione prestata alle condizioni e all'esigenza di risolvere il problema dei immigrati che sono presenti nel centro di prima accoglienza di Lampedusa e le condizioni di degrado in cui si trovano a vivere anche gli abitanti dell'isola, i cittadini italiani che vivono nell'isola, dove per esempio la scuola è inagibile e quindi i bambini, i ragazzi di Lampedusa devono andare a scuola in locali al momento di fortuna. Altro titolo che troviamo su molti giornali, ce l'ha La Nazione con una La Nazione e in genere ce l'ha il quotidiano nazionale con una certa evidenza, la morte di Mino Reitano, musica in lutto, titola La Nazione, e leggiamo sul quotidiano nazionale un profilo di Mino Reitano. Mino Reitano è morto ieri sera dopo una lunga malattia. Il popolare cantante calabrese, che aveva 64 anni, si è spento nella sua abitazione di Agrate Brianza, assistito dalla moglie Patrizia e dalla figlia Giuseppina Elena. Il racconto della biografia di Mino Reitano, ne ricorda il debutto a Sanremo nel 67, gli esordi prima accanto ai Beatles e poi la lunga carriera fatti di successi sia come cantante che come autore. Mino Reitano negli ultimi anni era anche molto popolare fra gli italiani all'estero, e un personaggio popolare conosciuto che ci ha lasciato ieri. Infine, avviamoci verso la conclusione con un passaggio sportivo, perché questa sera è ancora campionato, l'ultima giornata infrasettimanale di questo torneo, di questa stagione, e tiene banco ancora, tiene banco almeno sulla Gazzetta dello Sport con un titolo a tutta pagina, tengono banco ancora i problemi dell'Inter, che per avere dei problemi resta comunque in testa al campionato con 3 punti di vantaggio sulla Juventus che è seconda. Mal di testa Inter, titola la Gazzetta dello Sport, che relega invece in richiami le vicende di Juventus, Milan e Roma. Mal di testa Inter, vigilia gettata per la capolista che discena a Catania. Balotelli, caso clamoroso, Mourinho lo convoca, lui rifiuta, multa a 1 mese per il giocatore della primavera, cioè multa e 1 mese di primavera, cioè il giocatore è stato relegato per 1 mese a giocare nella primavera, forse Balotelli pensa di avere un futuro altrove che all'Inter. La polemica resta vivace, sarà probabilmente spenta solo questa sera quando alle parole si sostituiranno i gol della giornata di campionato. E in attesa di questi io vi auguro una buona giornata, vi saluto per oggi.